America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti, anzi bentornati ad America 24. Dopo la pausa estiva riprendo la trasmissione e dedico la copertina della settimana, la dedico all'America. All'America perché oggi negli Stati Uniti si celebra il Labor Day, la festa del lavoro. I mercati sono chiusi, questa è anche la giornata, tra l'altro, che di fatto chiude la stagione estiva, quindi apre una nuova stagione. È una giornata anche simbolica di quanto l'America sia diversa dall'Europa e dal resto del mondo, che celebra la festa del lavoro il primo maggio, ma è anche la giornata, e qui arriviamo nella fase centrale, che chiude una fase importante della campagna elettorale, perché da domani si entra in dirittura finale verso l'appuntamento fatidico dell'8 novembre per determinare chi vincerà la Casa Bianca del 2016. Guarda caso è proprio sul lavoro che, parlando sia di elezioni che di gestione del paese, si concentra l'attenzione di tutti. Just as I believe the Paris Agreement will ultimately prove to be a turning point for our planet, I believe that history will judge today's efforts as pivotal. Al G20 cinese si è parlato di tutto, si è firmato un bilaterale USA-Cina per ratificare l'accordo di Parigi sull'ambiente, si è parlato però soprattutto di crescita, come si può rilanciare questa crescita globale che è un po' asfittica, come si può rilanciare il lavoro. Ecco perché questo è un argomento centrale, ma perché, diciamocelo, le polemiche del nostro tempo, i malanni politici, la crescita del populismo, la crescita del fenomeno Trump, si riconducono tutti a una radice comune: crescita asfittica, appunto, difficoltà a generare nuovi posti di lavoro, redditi con un potere d'acquisto in calo nonostante i dati macro ci ripetono che non c'è inflazione, non preoccupatevi, i prezzi sono stabili. Ma io non me ne accorgo, forse voi sì, ma io non me ne accorgo. Ecco, questo ci porta dritti dritti alla campagna elettorale americana, di cui non parliamo, ormai da troppe settimane. Mi ha riunito oggi con il signor Donald Trump e spero pronto a farlo con la signora Hillary Clinton. Avrete seguito questo periodo, gli sviluppi della campagna elettorale, sul nostro giornale naturalmente, dove abbiamo continuato a scrivere. Abbiamo visto i passi falsi di Donald Trump, le sue cadute nei sondaggi, il parziale recupero dopo il bizzarro invito del presidente messicano Nieto per un bilaterale. Ecco, devo dire, davvero strano questo invito di Nieto. Ma come? Trump dice peste e corna del Messico e dei messicani e tu lo inviti a prendere il tè. E infatti ci sono stati degli attacchi feroci contro Nieto. Ecco, visto che ho aperto sul G20, però direi torniamo un momento a questo incontro cinese. Il leader Xi Jinping è stato finora, lo avete sentito nelle sue dichiarazioni, impeccabile. Sì, devo dire, c'è stata una piccola scaramuccia, ma questo riguarda le burocrazie fra servizi cinesi e americani. L'accordo che i due leader, Xi Jinping e Barack Obama, hanno firmato sul clima di Parigi ci dice quanto importante siano questi vertici. Eppure il multilateralismo nell'era del caos è sotto attacco, senza che i critici naturalmente abbiano alternative a portata di mano. Ben venga dunque questo G20 cinese a Hangzhou, che poi è l'ultimo di Barack Obama, il presidente americano, questo va detto, che ha creato questa postazione avanzata dell'architettura con cui gli Stati Uniti hanno cercato di garantire con l'internazionalismo un ordine mondiale. Dunque si impone un bilancio. L'America stessa si trova davanti a un bivio elettorale che mette in dubbio la storica e consolidata vocazione internazionalista del paese. Donald Trump vorrebbe muovere gli Stati Uniti nella direzione opposta a quella che Washington ha seguito da sempre nella sua tradizione, nei suoi valori, e cioè vuole muovere il paese verso l'isolazionismo, la chiusura, l'intolleranza. E dunque, se gli elettori sceglieranno Trump, il fragile multilateralismo del nostro tempo, pensiamo a Brexit per esempio, rischierà di subire un colpo mortale. Se gli americani sceglieranno Hillary Clinton, si può pensare invece a un rilancio, magari introducendo tutte le variazioni e correzioni di cui, questo va detto, l'apparato sovranazionale attuale ha bisogno. E perché questo? Perché nonostante la retorica elettorale, con Hillary ci sarà una continuità con Barack Obama, e qui veniamo ad Obama. Obama ha gestito bene alcune cose interne, devo dire, nonostante abbia lanciato il G20, poi sul piano internazionale, secondo me, non ha fatto bene. bene, ne abbiamo parlato in altre occasioni, per esempio nei suoi rapporti con Putin, per esempio in Siria. E dunque anche questo, il contesto internazionale, oltre che economico e per il rilancio del lavoro, con cui dovremo seguire queste elezioni americane, difficili, controverse, imprevedibili, ma sicuramente affascinanti. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!